20 ottobre ho incontrato Piero, affezionato frequentatore del caffè Banlieue. Con lui iniziano ufficialmente le chiacchiere da bar. Certo. Beh, sono due postazioni, c'è cioè quella all'ingresso al calorifero con le due poltrone che hanno danno metà un senso di forte intimità perché sono due poltrone molto isolate dal resto dei tavoli. E un tempo c'era anche un tavolino dove ci si poteva stare in più. E però danno un senso un po' di esclusività contrapposto al fatto che sei in vetrina e quindi che però c'è il vetro che quindi puoi essere visto ma non sentito, quindi crea uno strano connubio diciamo tra intimità, mentre l'altro ovviamente la loggetta qui alla nostra destra che invece per la stessa conformazione è molto raccolta, che però ha lo svantaggio di avere quel tavolino basso davanti che è molto scomodo per quando bevi. L'altra cosa che mi piace è il bancone là dietro, quando ogni tanto il locale è molto pieno mi metto lì, che invece è totalmente avulso dalla realtà e mi permette di sedermi, di essere quindi avere il contatto con il banco e vedere tutto, ma di essere invece totalmente isolato, no? Cioè sono sempre, sto cercando sempre cose che isolano, ecco, sì, sicuramente a me non piace l'idea della tavolatona, non mi piace l'impressione di essere alla mercé. L'ultima cosa che secondo me è molto poetica è la colonna in mezzo. E questo allora, guarda, mi attacco e mi rendo conto che sono veramente schifosamente ruffiano e con la lingua lunga. E di un altro punto di riflessione che porto.